teniamo, oltre che la puntualità nella diretta, per questa vigilia di weekend, venerdì 24 novembre, abbiamo anche la giornata di sole che di solito contraddistingue il Jazz Live. Alfredo, ti ho già salutato almeno 5 volte questa mattina. Meglio anche la sesta. Ciao Willy. Buongiorno Alfredo, so che non sei molto amante delle formalità, ma in questo caso... Buongiorno, come stai, la famiglia? Piacere. Tutto bene, presenterò, grazie. Siamo arrivati non al termine, perché noi continueremo a seguire gli eventi ovviamente, ma di un Bologna Jazz Festival che, ti confesso, mi ha entusiasmato in gran parte di presentazione e anche in gran parte di presenza per i concerti a cui ho assistito tra Bologna, Ferrara, il Jazz Club Il Torrione e altre sedi come ad esempio il Binario 69. Questa è l'ultima settimana per quanto riguarda la rassegna Felsinia, ovviamente il Jazz Live c'è, ne daremo approfondimento con le voci dei protagonisti e quindi al termine avremo nelle prossime settimane anche il compendio generale. Per adesso posso, dal punto di vista artistico, confermare una qualità, una eterogeneità nelle proposte, un'importanza per il lavoro all'interno dei club che non finisce qui, ovviamente, come ho già anticipato, ma che mi ha portato, oltre che attenzione, anche un gusto musicale soddisfatto. Ecco, questo è in due parole la mia sintesi. Ma sì, ma anche scartabellando il programma sono passati come Sask, Potter, Zenone, cioè Ermeglio, come dire, Bill Frisella la chitarra, stasera sarà Steve Coleman, cioè per dire un po' di meno, abbiamo grandi Ron Carr, cioè grandissimi musicisti, famosissimi, anche personaggi magari meno noti ma altrettanto importanti, sono girati appunto nel Festival del Jazz di Bologna, per cui credo che, guardando anche James Brandon Lewis, dimenticavo, per carità, questo meno conosciuti, ma ha fatto un concerto notevolissimo, Mark Giuliano alla batteria, sì, che è un personaggio interessantissimo, quindi ce n'era per gli appassionati un po' anche schizzinosi, invece per quel più largo pubblico, insomma ce n'era passando anche per civiltà di diversi generi, diversi locali, insomma è un festival che, paragonandolo, non per nazionalismo delle due torri, che forse non è mezzo a questo punto, per guardare anche gli altri calendari dei festival in giro, beh, dà dei punti. Sì, è stato veramente una presenza artistica importante, anche logistica, quindi non finisce qui, ho detto, perché questa sera niente po' di meno che Steve Coleman sarà in trio, e io non ho mai visto Steve Coleman in trio. Ah, hai perso. Sì, infatti ammetto la mia carenza. Non è una cosa simile. Bisogna leggere bene, perché adesso non so come sarà stasera. Stamattina Steve Coleman, lui comincia a suonare e si disinteressa del pubblico, tra virgolette. Si fa attacchi ai suoi assoli ed è un linguaggio all'interno di questi suoi ritmi funky, hip hop, insomma questi ibridi incredibilissimi, ritmiche complessissime tra l'altro, e lui intessa questi lunghi fraseggi bop, sì, e quindi devi starci dentro al fraseggio, altrimenti rischi di perderti, però insomma ha dei momenti, tanto io l'ho già sentito questo gruppo qua, con grande entusiasmo ricordo uno dei più bei concerti che ho visto ultimamente, sì. Infatti, allora la completiamo la formazione con Rich Brown al basso elettrico e Sean Rickman alla batteria. E che musicisti sono? Poi per essere al fianco di Steve Coleman, che non è esattamente comodissimo, severo, è molto severo, tra l'altro lui è a Bologna anche per fare il workshop al conservatorio, quindi perché è molto severo in musica e tra l'altro molto severo col pubblico, appunto più potrebbe far quello che fa i ritmi funky, no ha un'attenzione, è molto non si concede in tutti i sensi, però non lascia certo a desiderare, anzi tutt'altro. Io, per quanto riguarda questa formazione che vi sto proponendo, che è più estesa, Reflex è legata alla Reflex, però è più estesa e li troviamo in un disco della Label Bleu francese, Resistance is Futile. Io ve ne propongo un brano e poi torniamo in diretta per commentare anche quello che abbiamo ascoltato. We'll be right back. permesso. Oh, un tema facile da esprimere. Esattamente. Allora, comunque, guardiamo la formazione in questo brano che hai messo su. Ambroise e Finlayston alle trombe. Cioè, quindi... Due trombe. Poi Jason Mora, uno dei grandi campioni emergenti al pianoforte. Quindi, cioè, poi si sente che impasto sì, sonoro c'è. E la narrazione, la scrittura, non è da tutti. Al controalto Steve Coleman. Ecco, sarà in formazione più ridotta, sarà in trio, ma non mancherà. No, certo, no, merita, merita. Infatti, confermo, Steve Coleman and Reflex sarà questa sera all'Unipol Auditorium, è uno dei concerti prodotti dal Bologna Jazz Festival. Ah, a proposito, aggiungo anche che Steve Coleman fa questi vocalizzi. Sì, per, sì, sì. Senti. Tiene il tempo con l'hand clapping, sì, e sì, poi da questi vocalizzi, vedi, dall'hip hop anche. Sì, perché non è lo scat, no, di tradizione, questo è africano. Beh, anche la scelta comunque di chiudere con questo nome, no, ma è notevole, notevole. È grande, Steve. Ma è una storia che fin da giovanissimo con De Volan fino ad oggi è costellata di cose preziose. Sì. Preziosissime. E collaborazioni altrettanto preziose. Potremmo dire anche che Steve Coleman e la sua band, Greg Osby, la Cassandra Wilson al tempo, M-Base si chiamava, hanno creato questo genere M-Base, che forse è l'ultimo genere riconosciuto come il jazz prima della grande diaspora degli sì, stili. Che poi si L'M-Base invece è un filone riconoscibile. Di questo disco non ci stanchiamo mai. No, possiamo andare avanti però. No, altrimenti no, dobbiamo, facciamo il vinile quotidiano. Salutiamo Andrea. Ciao Andrea. E ricordiamo. Belli i suoi dischi. Sì, grazie. Dell'era anche del rock, un che a me tanto caro. Non mi perdo ogni martedì. Quindi. Ah, poi a proposito, soldi, soldi, soldi alla radio. Ah, beh, ancora, certo. Abbonamento, beh, stagione d'abbonamento per Radio Città Pubblica. È come un jukebox, vuoi sentire sti cose? Certo. Metti il soldino okay dentro. In tutti i modi all'Unipol Auditorium questa sera alle 21.30 Bologna Jazz Festival. Oh, intanto Alfredo ti posso dire grandi nomi e anche grandi esperienze per quanto riguarda nomi in esordio. La formazione che ho ascoltato ieri, ma come ascoltato per voi di solito è al lunedì, però abbiamo un'intersezione nell'intersezione, perché sembra prendere la macchina del tempo. Ieri al binario 69, questa sera saranno al Torrione Max Puglia, Vito Ranucci e altri musicisti di cui vi darò poi la formazione. Il progetto è Hinterland. Allora, a me ha entusiasmato molto, ha coinvolto molto. È un progetto che vede due basi fondamentali, che sono, per ispirazione, poi certamente c'è una lettura personale, a quella fusion, alla John McLaughlin, ai Weather Report, quindi una presenza importante anche nell'elettronica, ma tutto questo con un ampio respiro partenopeo. E questo mi ha lasciato veramente, già che amo la musica napoletana e quelle sensazioni, con un'originalità e un coinvolgere nel racconto musicale e nei brani, che sono un continuo percorso interiore, sono un'espressione molto particolare. E prima del concerto, visto che ero presente per il DJ set, chiaramente ho voluto sondare un pochettino dai protagonisti, da Max Puglia e Vito Ranucci, appunto come nasce tutto ciò, quali contenuti e cosa ascolteremo. Sono messe due teste, diciamo, napoletane. Noi siamo dell'Interland, o meglio delle periferie napoletane, una d'ovest e un'altra est. Abbiamo messo insieme questa fusione della mia musica, che è leggermente più melodica. Da 20 anni di flamenco con gli Hermanos, mi sono spostato sull'elettrica e con Vito abbiamo già fatto delle collaborazioni. Ho trovato in lui un congeniale partner, oltre ad essere un genio dell'elettronica, un grande compositore. A questo punto chiediamo a Vito, per quanto riguarda l'espressione legata all'elettronica, che è veramente un universo, nella tua specificità in cosa consiste? È nel traslare, utilizzare l'elettronica per creare delle ambientazioni sonore, quindi sfruttare anche la coscienza classica, jazz, improvvisativa, arrangiatoriale, per creare dei contesti sonori che vadano oltre l'uso di strumenti tradizionali, quindi non concepiamo la musica come dal quartetto Beatles, batteria, basso, chitarra e voce, o pianoforte, basso, chitarra, ma inizi a concepire la musica come una sonorità. Quindi per ottenere una sonorità oggi hai tanti strumenti a disposizione, suoni, risorse, tools, programmi, software, eccetera, che non puoi lasciare a casa per portare la solita basso, oppure insomma intendere la musica nella maniera troppo tradizionale. Così noi riusciamo a contaminare anche la nostra tradizione in maniera che diciamo possa rendere la tradizione più trasversale, ascoltabile a 360 gradi in tutto il mondo e non soltanto in dei contesti specifici, insomma, perché crediamo che la musica della nostra terra ha bisogno di trovare incontro con culture più ampie di quella del Sud Italia o dell'Italia, insomma. McLaughlin ricordano questa introduzione. Ma c'è un pizzico anche di Roberto Muro. Ah beh, questo è sul Golfo di Napoli. Adesso io ne ho preso due brevissimi spaccati, anche perché mi sono incantato a guardare Vito Ranucci, che oltre a essere un sax soprano che dà un contributo importante a queste note, ha la capacità con l'elettronica di trasformare la sua voce. Sentite vagamente questi sospiri che sembrano impercettibili ma che sono assolutamente presenti. Quindi questo è il vocoder che leggo. È un vocoder, adesso io non so. Sarà un bagaglio elettronico. Pratico. Esattamente, è un bagaglio elettronico che per me ci sta in maniera psicadelica, sa usarlo bene, esattamente. Tra l'altro il concerto, io lo caldeggio questa sera poi in un ambiente come Ferrara, inizia con un video molto particolare dove in bianco e nero le bellezze, il golfo vengono alternate alle periferie con questi suoni, queste voci, e poi parte il concerto. Insomma, è qualcosa di veramente suggestivo. È un concerto particolare, indubbiamente, che è stato al Binario, in esordio questa sera al Torrione, e continuiamo con questa anticipazione. Se devo fare un accostamento guardando alle musiche di Vito e alle musiche mie come sono state arrangiate da Vito, guardo a John McLaughlin, chiaramente. Non sentirai delle improvvisazioni classiche che si muovono su una struttura ABA o sulla struttura canzone, ma sentirai dei feel, delle improvvisazioni che entrano ed escono a seconda del mood della serata. Dischi? Dischi non se ne vendono, noi vorremmo produrre questa cosa e almeno metterla in digitale. Io chiedo sempre al concerto, avete il disco? No, non abbiamo ancora il disco, noi questa sera debuttiamo. È la nostra prima sera di questo progetto che si chiama Hinterland. Prima vedremo un corto realizzato da Vito che si chiama per l'appunto Hinterland. E con le sue musiche, sue evocative che vengono dal Vesuvio alle zone periferiche napoletane, e poi partiamo con un concerto con una serie di composizioni nostre, suonate in un mood particolare, suonate in un'atmosfera particolare, dove c'è molta elettronica, c'è molta improvvisazione, non è il maniero mainstream però. Diciamo che l'elettronica ci dà la possibilità anche di proseguire un percorso che Miles Davis ci ha fatto vedere, quindi di incrociare la musica psichedelica, anche gli ambienti psichedelici, ai contesti jazz, perché poi noi crediamo che il jazz non sia, per noi europei, non possa essere un problema di coerenza stilistica, cioè non possiamo avere un problema di coerenza stilistica con una musica che non ci appartiene fino in fondo. Possiamo usare questa musica utilizzando i nostri codici comportamentali e culturali, e quindi la sfruttiamo come meglio ci calza. Quindi ci piace anche portare avanti dei discorsi che abbiamo appreso dai buon vecchi Weather Report, dai buon vecchi Miles Davis e compagni. Siamo diciamo in un luogo della musica che usa il jazz, ma che non è soltanto jazz. Certo, ok? Certo, sì. Un Beats Brew in sapore mediterraneo. Esatto. Ipnotico, coinvolgente, là dove il pubblico si lascia trasportare da quello che noi offriamo. Io vi ringrazio per. E invece, Alfredo, io penso che avresti trovato qualcosa di originale. Ma sì, anche perché, devo dire, contraddicendo il tuo ospite, il jazz non è solamente il jazz, ma in America come in Europa. Quando mai un musicista jazzista in America è stato allo stile? No, nessuno. Ma chiederà a Mingus, esatto, chiederà a Sarra, chiederà a tutti, sì, a Coleman, certo. A Parker. Coleman, certo, di questi esempi ne è pieno, cioè, ogni musicista della musica. Cioè, sì. Musicista, il jazz Monk. Per sua natura è peggio di un bastardo, dice Mingus, quindi non c'è nessun obbligo. Allora, vietato vietare. Noi procediamo, intanto ribadisco l'appuntamento questa sera al Torrione con Max Puglia, chitarrista, Vito Ranucci, sax soprano, e al vocoder Luigi Borgogno, elettronica e drum machine, Mario Mazzaro, contrabbasso e basso elettrico, per completare la formazione. Domani avremo un concerto con Bologna Jazz Festival ed è un piano solo che andrò a vedere, quindi lunedì vi porterò nel ascoltato e sentito per voi prima del Breakfast Club quello che è il contenuto di questo concerto. Io non conosco questo musicista, ne ho intercettato qualche nota anche per quanto riguarda il lavoro di Sullivan Fortner, ho grande curiosità. Anche tu, Alfredo, mi sembra mai sentito, mi confesso davanti al nostro adorato 24 ascoltatori poi neanche Sullivan Forte non lo conosco, infatti sarà anche a Bologna alle 18, giusto, alla sala giusto, borsa, bravo, giusto. E quindi è un'occasione per chi non va a Ferrara, a Bologna, insomma, è lui un musicista che ha un passato, diciamo, su un canale molto classico, cioè, ne so, con l'orchestra di Wynton Marsalin, con Dizzy Bridgewater, a seguito di cantanti. Ultimamente ha suonato con la Salvan, la McLaurin Salvan, che è un cantante che sta tra il classico e il folclorico, molto molto brava, e lui c'era. Mi sembra molto molto originale, e lo ascoltiamo per un attimo, poi passiamo a domenica con la rassegna istantanea Serico Tonale. A tra poco. Thank you. Amico mio, io penso che alle ascoltatrici e agli ascoltatori non abbiamo fatto un dispetto a fare. No, ascoltare. Questo è bellissimo. All the Things You Are di Sullivan Ford. Beh, io mi ricordo versioni eccellenti come quella di Phineas Newborn o di Cage Hard, ma questa non è da meno. Infatti, quando ho ascoltato, perché anch'io, sai, poi piano solo ha tutta una storia. Piano solo ti mette a nudo, perché se non sei eccezionale, capito? Come dire, in borsa. Infatti, Sullivan Fortner, che non abbiamo, sì, sappiamo delle collaborazioni, ma per noi sarà un po' una prima volta, ho detto dai, andiamo, e non sono assolutamente pentito, anzi la mia curiosità a questo punto diventa molto forte. Però abbiamo una brutta notizia di domani. È stato, l'abbiamo ricevuto in questo momento, il concerto serico tonale istantaneo è stato annullato, auguriamo un'immediata guarigione, una pronta ripresa a un'ottima giovane musicista che già abbiamo avuto. Bravissima. In frequenza, lei è molto noi incanto, la vediamo come clarinettista, sì, in un gruppo di clarinetti, invece tre, con Bittolo, sì, Bon, sì, lui e Fortini, un altro ragazzo giovane. Poi qui invece si doveva in teoria esibire anche col sassofono e con Marta Davaglia la voce, sì, sì. E invece niente, ma sarà rimandata più avanti. È rimandato, ne diamo anticipazione alla seconda parte, immagino. Ovviamente ne daremo notizia, perché è una musicista che con Jazz Live seguiamo, veramente un ottimo talento, oltre che una produttività artistica nonostante la giovane età già fertile. Io vi lascerei ancora un po' di note per quanto riguarda Sullivan Fortner e poi andiamo in pubblicità. Rientriamo. Tutte le cose che tu sei. All the Things You Are rifatta. Ma veramente, dai, non vedo l'ora. Tra poco. Dirvi, a Bologna Jazz Festival ce n'è anche per il Breakfast Club, è un broken beat veramente intersezionato con sonorità di modern jazz. Il remix è degli Alpha Mist, che già abbiamo ascoltato nella rassegna Felsini al Locomotive, per un brano Palmers della scrittura della formazione, ti dico come si pronuncia, J Sphinx, perché sì, qui sono, c'è un acronimo come. Sono sei consonanti e una in greco. Sì, che è abbastanza difficile. Sai chi mi ricorda? Il nemico di Superman, quello che faceva gli scherzi cretini, che aveva un nome impresentabile, che per mandare la sua terza dimensione a farlo pronunciare la rovescio. No, era lui, si chiama, come si chiama? Alex Watson, ecco. Ma che cosa dico, Johnny Woodman, scusate, e Tarlo Lassano alla voce, Johnny Woodman alla tromba, Short, sì. Sì, Liam Short al trombone, alla chitarra, Alex Watson c'è, hai detto bene, ma è alle tastiere, sì. Nathan Shingler alla batteria. Allora, questo, io non li conosco. Allora, sì, io conosco gli Alpha Mist, che hanno portato questo disco veramente bello, che poi presentato al Locomotive all'interno del Bologna Jazz Festival. Allo Sghetto ci sarà questa formazione, lo Sghetto Club, uno dei club della rassegna, per domani sera 25 novembre alle ore 23. stacco dal Breakfast Club, ecco, nella playlist, sì, è più facile trovarlo. Ah, poi torniamo a una tradizione in cantina, Dr. Dixie, la Dr. Dixie. No, ma prima c'è un'altra tradizione, domani sera, Francesca D'Andrea Quartet con Jason ce Brown. Ce l'ho, ce l'hai? Ce l'ho, ma ce manca. L'ho. No, ce l'ho, però volevo dare questa alternanza, perché domenica 26 novembre, cantina Dr. Dixie, al trombone Checco Coniglio, che è uno storico, intramontabile, e quindi la giusta attenzione. Valentina Mattarrozzi alla voce, la nostra amica Valentina, e oltretutto vediamo una formazione, è una Dixie Jazz Band, quindi quanto mai che ha avuto i suoi momenti importanti. Gli anni 60 ebbe un successo anche in Costa Azzurra, cioè è riconosciuta, è una storicissima, storicissima. Come ho detto, tu dicevi, ce n'è per tutti i gusti, in effetti, insomma, è veramente molto estesa. Dicevi di Francesca Tandoi? Sì, che Bologna Jazz Camera Music Club chiude la stagione del festival, cioè, perché poi continua a lavorare proprio nel festival jazz. Quindi abbiamo Piero Dorici, sax, che è il nord di casa, al tenore, Francesca Tandoi, pianoforte, naturalmente cantante, Stefano Assegna al contrabbasso e Jason Brown alla batteria, che è l'ospite un po' di sessione. Thank you. Camera Jazz and Music Club, saremo a proposito di club verso la conclusione del Bologna Jazz Festival. Qualche nota per aver assaggio del Francesca Tandoi Quartet alla batteria, Jason Brown, e la presenza al Camera Jazz di Piero Dorici al sax tenore. Come vi è stato anticipato, abbiamo un percorso che va anche nel dopo festival, e uno dei club d'appartenenza è il Bravo Caffè. Per la serata di domenica 26 novembre, un progetto di Francesco Cavestri, talentuoso pianista, tanto giovane quanto ispirato, l'abbiamo già sentito a proposito di un lavoro molto curioso, molto particolare, a proposito di un produttore che nel cuore mi sta di alternative pop, che è Madlib, appunto rielaborato in intersezione con le note di Francesco, che è qua al telefono con noi. Intanto buongiorno e bentornato, Francesco. Buongiorno William, grazie, un piacere essere ai microfoni con te. Grazie a te. Allora, questa volta... microfoni virtuali, perché siamo telefonici, però sì, ok, diciamo ai microfoni, ma pur sempre in diretta, caro Cavestri. Esatto. Ascolta, ci siamo conosciuti con questo lavoro che mi hai presentato con Madlib, a proposito delle sonorità di questo talentuoso produttore, e quindi adesso ci ritroviamo per altri percorsi vicini al Bravo Caffè. Cosa ascolteremo nel concerto di domenica? Sì, mi fa piacere tra l'altro che riporti subito nella conversazione Madlib. Ricordo bene la conversazione che avevamo avuto in merito al mio primo album, perché c'è stata una traccia il mio primo album Early 17 in cui reinterpretavo una produzione delle più celebri produzioni, sì, di Madlib, Figaro, esatto, in chiave tra elettronica, jazz, con forti riferimenti all'hip hop. E anche in questa data che tengo al Bravo Caffè il 26 novembre come data dell'Oltre Festival, dell'altro festival, la data l'ho scelto di chiamarla un progetto speciale dal titolo Shades of Blue, che è proprio una citazione sempre a Madlib, in quanto lui ha scritto un album appunto intitolato Shades of Blue, quindi forme di blu, sfumature di blu, che è stato uno dei, è stato pubblicato dalla Blue Note, infatti, è stato uno dei primi esempi. Sì, correggimi se mi sbaglio, stavo per dire la produzione Blue Note. Esatto, sì, sì. No, era proprio il sottotitolo del disco, il titolo del disco è Shades of Blue e il sottotitolo è Madlib Invades Blue Note, perché è proprio uno dei primi esempi, se non il primo esempio in assoluto, di pubblicazione da parte di un'etichetta jazz, anzi dell'etichetta jazz, che è la Blue Note Records, di un produttore di stampo hip hop, quindi proveniente dal mondo dell'hip hop. In quel disco ci sono reinterpretazioni di grandi classici del jazz, come ad esempio Dolphin Dance di Herbie Hancock, rivisti appunto in chiave tra hip hop e musica elettronica. E io ho scelto questo titolo, questo tributo, questo riferimento perché domenica sera alle 21:30 al Bravo Caffè sentirete proprio questo, cioè un viaggio tra i miei nuovi lavori discografici. Ci sono due progetti in uscita, uno è un album di inediti in cui partecipa anche, c'è anche la grande collaborazione di Paolo Fresu in una traccia e di Cleon Edward, batterista di Erykah Badu, Lauryn Hill e tantissime altre grandi personalità dell'R&B, dell'hip hop americano. Quindi questo album c'è in uscita, ma anche una colonna sonora che ho registrato per un podcast della Rai e che ho scelto anche di pubblicare come album a mio nome. Quindi sentirete tante ispirazioni diverse, un viaggio appunto tra il jazz, la musica elettronica, l'hip hop, e un riferimento anche ai brani originali che ho composto per la colonna sonora. E fin qui siamo andati bene. Il problema arriva adesso, che ti passo Alfredo Pasquali, che è molto più critico di me, quindi attento, Francesco. La domanda oggi sulla storia, perché l'hip hop nasce nell'Inner City, le città del nord e nord America. Oggi com'è mutato in questo viaggio l'hip hop in questi decenni? Beh, in questi decenni sicuramente si è andato a ibridare. Devo dare una risposta storica oppure come la vedo? Ma il tema libero. Tema libero. Tema libero. Allora, beh, sicuramente dipende anche che zona geografica andiamo a incontrare. Secondo me, negli Stati Uniti, ma anche in contesti tipo l'Inghilterra, anche la Francia, il pop è stato ben contaminato e si è ben unito a un genere come il jazz. Infatti mi ispiro molto a quelle correnti là, penso ad esempio a nome come Robert Glasper, ma anche per andare in Inghilterra come Kamal Williams, insomma tantissimi produttori, tastieristi, musicisti di jazz si sono incontrati con questo genere e hanno secondo me aiutato ad arricchirlo fortemente. Qua in Italia c'è stato anche qualche sprazzo di jazzista, di musica jazz che ha provato a incontrare l'hip hop, anche alcuni risultati anche ottimi, come ad esempio Davide Shorty, che è uno dei più importanti rapper e cantautori in Italia di genere hip hop, e infatti io ho scelto il suo batterista per accompagnarmi in vari progetti, cioè Allotta, che è il batterista storico di Davide Shorty, e sarà con me anche domenica sera a Bravo Caffè. Quindi cerchiamo di dare all'hip hop quel quid in più che solo un genere come il jazz, così profondo, così ricco di storie e anche di consapevolezze armoniche e musicali, può dare. Quindi io ho visto l'hip hop molto legarsi ad altri generi, ovviamente la musica elettronica. L'hip hop nasce dall'incontro con la musica elettronica, perché grandi produttori hip hop, che sia Jay Dilla, Madlib, facevano utilizzo di strumentazione elettronica, di campionatori, di sintetizzatori, eccetera. E quindi l'incontro di questi tre generi, secondo me, è necessario, inevitabile, e può contribuire, secondo me, ad arricchirli tutti e tre per ragioni diverse. Certo, otto meno. Hai visto? Quasi, è arrivato ottimo, quasi, anzi, io direi ottimo. Ascolta, tu sei giovane, almeno rispetto a noi, poi sei giovane, decisamente. Ma tutto quel movimento hip hop, tra virgolette, hip hop di gli Us 3 che lavoravano con il jazz, oppure Galliano stessi nello spiritual jazz, così, che adesso ovviamente hanno lasciato una traccia, secondo me, fondamentale. Quanto a questi giorni poi hanno portato questi lavori? Beh, sicuramente tanto, nel senso che il Gastri, appunto, una delle loro performance, Herbie Hancock, esatto, il campionamento di Cantaloupe Island, Cantaloupe, quindi che viene luppato quel giro di pianoforte creato da Herbie, insomma, è diventata una dei loro tratti caratteristici. Cioè, quello è stato uno dei delle forme più influenti, che poi ha dato vita a tutti i campionamenti dell'hip hop, del jazz da parte dell'hip hop. Io ho fatto una lezione concerto che ho portato sia al Festival di Paolo Fresio in Sardegna che alla Casa del Jazz di Roma, che da poco in Triennale a Milano per Jazz Me, una lezione concerto a titolo Jazz Hip Hop Due Generi Fratelli, in cui ho selezionato alcuni degli esempi di brani del jazz, come ad esempio Come Running to Me di Herbie Hancock, che vengono ripresi e reinterpretati e campionati da dei produttori e degli artisti hip hop. E quindi questo, appunto, gli Aspri con Cantaloupe Island hanno dato veramente un impulso fondamentale e hanno ispirato tantissime trafile di produttori che poi si sono, appunto, hanno utilizzato anche brani del jazz per dare vita e per sviluppare, insomma, questo genere. Quindi hanno dato sicuramente un contributo fondamentale nel come questi due generi si incontrano. Quindi ora lo racconto anche dal punto di vista storico, nel senso che il jazz e l'hip hop hanno poi tantissimi punti in comune anche dal punto di vista storico-sociale, entrambi i generi nati dalle minoranze, entrambi i generi di ribalta sociale, un certo senso, di forte protesta sociale, e quindi i punti in comune sono fortissimi, e questo messaggio vuole essere ai giovani, a un giovane come io ho 20 anni, e quindi assorbo e conosco tante di quelle cose che i ragazzi ascoltano oggi, e si ascolta ovviamente tanto hip hop e tanta musica elettronica, ma quei generi lì da dove derivano? Cosa hanno in comune con un genere invece forse oggi dalle giovani generazioni, almeno in Italia, meno ascoltato e meno conosciuto come il jazz? Tantissime cose in comune. Sì, e quindi per ascoltare al meglio, per approfondire al meglio, per apprezzare al meglio l'hip hop e la musica elettronica, è necessario anche conoscere e poter arrivare ad ascoltare quello che è il jazz. Aggiungo anche Galliano con l'interpretazione di Prince of Peace, di Leon Thomas e Farrah Sanders. Ce ne sono diversi nell'hip hop, e quindi onore al merito della ricerca, aggiungendo Shades of Blue di Madlib per il lavoro Blue Note, sarà presente al Bravo Caffè. A che ora, Francesco? Allora, alle 20.30 per la cena, poi il concerto, certo, a seguire il concerto domenica 26 novembre. Ti ho fatto un dispetto, ho preso In the Way of Silence come brano per portare a termine la nostra conversazione, però c'è un featuring di Fabrizio Bosso che, insomma, vale la pena ascoltare insieme a Francesco Cavestri. Io ti ringrazio tantissimo per questa conversazione e ci vediamo al Bravo Caffè su Jazz Live quando ce ne sarà occasione. Grazie. Grazie a te, William, a presto, è stato un piacere. Ciao. gran bel concerto anche quello di Fabrizio Bosso, al Torrione, qua lo sentiamo nel featuring con Francesco Cavestri. Volevi aggiungere prima? Sì, perché per chiudere il festival proprio mettiamoci a tavola a pranzo domenica 12 alle 12.30 al ristorante Villa Carpena nel Forlì. Ah, Forlì? Sì, con Puglisi, Segni e Paternesi. E poi c'è una notizia che non so se sia vera, tu mi confermerai o meno, che il 5 dicembre al CAT, lì alla Torre dell'Unipol, c'è Mark Ribot piano e chitarra solo. Te la confermo. Ho parlato con Francesco Bettini. Abbiamo le fonti. Sì, non diciamo così tanto per dire. E mercoledì 29 novembre chiude il Jazz Insight con lo speciale Nina Simone, curato da Emiliano Pintori, che salutiamo. Alfredo, io ti auguro un buon weekend, come lo augura le ascoltatrici e gli ascoltatori. E ti saluto per la settima volta, a te e alla famiglia. E ricambio con affetto. Ciao, caloroso abbraccio a tutte e a tutti. Ciao, venerdì prossimo.